Europa 24. E buongiorno da Anna Migliorati. Anche dall'Europa si guarda alle discussioni italiane per il lavoro. Il commissario per l'occupazione Laszlo Andor è a Roma, dove ha incontrato oggi il ministro Enrico Giovannini. C'è infatti un piano italiano per l'occupazione giovanile, il cosiddetto piano di garanzia per i giovani, meccanismo che intende garantire che tutti i ragazzi sotto i 25 anni in Europa possano ricevere un'offerta di lavoro entro 4 mesi dalla fine degli studi o dall'inizio della disoccupazione. Il governo italiano ha inviato la proposta alla Commissione europea lo scorso 23 dicembre. Allora sentiamo il commissario Andor, lo abbiamo intervistato poco fa. The point is that yes, there is a serious assessment of the certo c'è una valutazione appunto sul programma di garanzia per i giovani che stanno facendo i vari stati membri. Gli stati membri dovranno altresì cominciare a usare i fondi e poi nel mese di aprile, durante un vertice che si terrà a Bruxelles, si parlerà dei progressi fatti fino a quel momento. In Italia si parla molto di lavoro in questi giorni. Ha sentito parlare, le piace il Job Act? Per quanto ne so, si tratta comunque di work in progress, di un qualcosa ancora in divenire. Naturalmente però sembra esserci un nuovo impulso, un nuovo impeto appunto per tornare a parlare della riforma del mercato del lavoro. Da tempo ormai la Commissione europea sta incoraggiando il governo a parlare appunto di queste possibili riforme che possono rendere il mercato del lavoro in Italia più dinamico e più inclusivo. And we can only welcome proposals to that direction. Così il commissario Andor, intanto sul fronte economico, continua ad arrivare segnali positivi da questo avvio d'anno, continua a migliorare il sentimento economico di industrie e consumatori nell'eurozona, è tornato a toccare per la prima volta da luglio 2011 la soglia psicologica dei 100 punti, dati che migliorano soprattutto in Spagna e Italia, e poco fa anche la decisione della BCE che ha mantenuto invariati i tassi nell'eurozona. Edward Snowden, l'ex agente americano che ha dato il via al Datagate, potrebbe apparire davanti agli eurodeputati, almeno via video. La Commissione del Parlamento europeo ha deciso a larghissima maggioranza di invitarlo a partecipare in videoconferenza a un'audizione dell'inchiesta sullo scandalo delle intercettazioni. E c'è un'altra vicenda che si chiude. Il Tribunale di Zagabria ha autorizzato l'estradizione in Germania di Josip Petrović, l'ex alto dirigente dei servizi segreti jugoslavi, accusato di essere il mandante dell'omicidio in Germania nel 1983 di un dissidente croato, Stefan Djurekovic. L'estate scorsa, subito dopo l'ingresso della Croazia nell'Unione Europea, il caso era stato al centro di aspre polemiche tra il governo di Zagabria e il commissario europeo alla giustizia, Viviane Reding. L'estradizione è resa possibile dall'entrata in vigore anche in Croazia ora del mandato d'arresto europeo. 2014, anno di elezioni europee, e allora poco più di 4 mesi, su quali temi si concentrerà la campagna elettorale? Ieri abbiamo parlato dei temi prioritari per Bruxelles e allora oggi quelli italiani. Disoccupazione, crisi e austerity sono le criticità che hanno fortemente indebolito l'immagine dell'Unione Europea e delle sue istituzioni. Su questi temi si giocherà la campagna elettorale dei prossimi mesi, soprattutto nei paesi più colpiti dalla difficile situazione economica, dove la credibilità dell'Unione è in calo e i movimenti anti-europeisti raccolgono consensi. Per superare la crisi di governance che attraversa attualmente l'Unione serve una maggiore legittimazione democratica. Le elezioni europee del 2014 saranno le prime dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che ha rafforzato i poteri del Parlamento europeo. In questo scenario i singoli paesi agganceranno i temi del dibattito nazionale. Per l'Italia, immigrazione e sicurezza innanzitutto, ci dice l'europarlamentare Salvatore Iacolino, Forza Italia, Gruppo Popolare Europei. C'è una esigenza reale di maggiore sicurezza nei confronti dei cittadini, quindi la tutela nel contrasto ai sistemi criminali è certamente una priorità politica. Come priorità politica non v'è dubbio è la certezza di una politica migratoria che prevede un approccio ispirato alla solidarietà. Tutti gli stati membri debbono condividere gli oneri legati al peso di una migrazione spesso irregolare che riguarda sempre di più i paesi ricchi. Per Patrizia Toia, PD, Gruppo Socialisti e Democratici, va recuperata la fiducia dei cittadini. Democrazia europea per fare che cosa? Noi vogliamo un'Europa che, pur rispettando i conti pubblici, pur facendo del rigore una linea ormai acquisita, punti però come obiettivo prioritario alla crescita e quindi a un patto per la crescita, un patto per il lavoro, non solo al patto del fiscal compact e dei vincoli sui bilanci, ma alla capacità dell'Europa di essere un motore di crescita. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E vi ricordo, Europa 24 verso le elezioni europee, questa sera, in effetto notte. Ancora una buona giornata da Anna Migliorati. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.